24 mattino di Alessandro Milan. Eccoci qua, cari ascoltatori, sono le 7:29 minuti. Buongiorno, ben ritrovati a 24 mattino. Siamo in diretta anche oggi fino alle 9, saremo in diretta anche domani. Vi voglio subito lanciare il sondaggio. Parliamo oggi di politica, della parola che è riapparsa un po' da un po' di tempo, da qualche giorno, sul fronte politico, quella dell'inciucio, inciucio o accordo o dialogo per le riforme. 2010 sarà l'anno dell'inciucio politico? Vi chiediamo questo, che ne pensate? Sarà l'anno del dialogo, del ravvicinamento tra le parti politiche per fare le riforme, della fine dell'odio? Votate su radio24.it o il sole24ore.com, come state già facendo. Per ora prevale il no, ma di poco, il 60%. Ne parleremo poi alle 8:30. Ora la lettura dei giornali. In primo piano. Siamo qui, le aperture sono diversificate. Voglio iniziare dal Sole 24 Ore. La notizia economica del giorno sicuramente è il piano Fiat, di cui si occuperà Oscar Giannino poi alle 9. Fiat pronta a investire 8 miliardi, Marchionne a Palazzo Chigi, Pomigliano continua, Termini chiude nel 2012. Le aperture invece legate, questa è anche Repubblica, apre su Fiat. Fiat chiude Termini Imerese, gli operai in piazza a Roma. Mentre le aperture politiche sono per il Corriere, Berlusconi perdono Tartaglia, ma spero non lo liberino subito. Berlusconi perdono Tartaglia anche per il Messaggero. Silvio perdona, Di Pietro no per Libero, mentre c'è chi rimane sul freddo, il gelo, gelo, inferno in autostrada, inferno, non inverno, ma inferno in autostrada per La Stampa. Poi vedremo anche altre aperture, voglio partire dall'attualità politica, ripeto, è il nostro sondaggio, e dal Corriere della Sera, pagina 3, il racconto di Berlusconi. Berlusconi, agenda per le riforme con il leader del PD. Berlusconi che, sapete, ha detto perdono Tartaglia, ieri ha fatto ancora un intervento per, diciamo, degli auguri di Natale, gli auguri del partito, un intervento in audio sempre, una conference call, ha detto perdono Tartaglia, sapete che non sono capace di portare rancore, ma certo il gesto non deve essere sottovalutato, poteva ammazzarmi, se Tartaglia mi avesse colpito con quella statuetta alla fronte o sulla tempia, o se mi avesse preso con la punta dell'aguglia maggiore, perché era la statua del Duomo, avrebbe potuto davvero essere una tragedia. E ancora Berlusconi che ha ripetuto un po' i concetti degli ultimi tempi. C'è troppo odio intorno a me, continuano a dirmi di tutti i colori, mi dipingono con un mafioso, un corruttore. Ci mancava anche Casini ad accusarmi di voler fare il padrone d'Italia. Si dice che vanno rispettate le istituzioni, allora bisogna portare rispetto anche per la Presidenza del Consiglio, istituzione votata dai cittadini con piena legittimità. Poi smentisce di volersi trasferire in una clinica svizzera per curarsi, insomma, per anche un intervento di chirurgia estetica dopo l'aggressione. È una balla, l'unica cosa che farò sarà tornare al San Raffaele, da quel santuomo di Don Luigi Verzé, per controlli alle ferite del volto. Tra l'altro il dialogo riparte o non riparte. Bersani ieri è andata porta a porta, la gente mi chiede di stare attento, sostanzialmente ha detto sta attento Bersani che qui ti imbrogliano, gli elettori sono preoccupati che dietro alle riforme ci sia la volontà di far passare altre cose. La palla è tutta sicuramente politicamente nel campo del PD. Perché? Perché c'è D'Alema che ha detto a volte qualche inciucio fa bene, la linea Veltroni-Franceschini che dicono, e anche Marino che dicono per carità, per carità. Ci sono allora i veltroniani, i franceschiniani, i dalemiani, i mariniani, i bindiani. Insomma, il PD è un po' diviso su chi deve, su chi dice sì al dialogo, sì no, chi dice no, tanto che Il Fatto mette proprio a pagina 9 il PD alla prova dell'inciucio, favorevoli, contrari, incerti. Volete scoprire, insomma, tutta una ridda di nomi: Letta, Bindi, Bersani, Franceschini, Veltroni. È intervenuto ieri anche Prodi su Repubblica, ieri in rassegna stampa non l'ho letto perché sapete Repubblica non era arrivato per la neve qui a Milano. Merlo, Tonini, Tenaglia, Casson, Orlando, chi sta di qua, chi sta di là, Bersani che dice appunto mi dicono di stare attento, Nicola Latorre che è un dalemiano doc, dice in un'intervista al Corriere della Sera, Maria Teresa Meli, alla domanda «Non è detto che si guadagni qualcosa a farle le riforme? Questo è l'atteggiamento di chi, come Veltroni, soffre di miopia politica. È il solito conservatorismo del centro-sinistra, il conservatorismo che ha fatto sì che non si facesse nulla e che finisse per prevalere un modello di bipolarismo come l'attuale, in cui si assiste allo scontro tra populismi». Insomma, la Torre dice: il dialogo ci vuole, basta miopia, la linea l'ha detta il segretario. Sul Foglio il commento, in prima pagina, il cavaliere pacificatore tende la mano e Napolitano la stringe. Tutto un commento su un nuovo corso di Berlusconi che ieri ha telefonato al capo dello Stato, Napolitano. Insomma, un riavvicinamento, un riappacificamento anche dopo le polemiche sulla Corte Costituzionale e dichiarazioni del Premier. Non so se faccia piacere a D'Alema, ma uno dei suoi massimi estimatori, intervistato dal riformista, da Alessandro De Angelis, uno dei suoi massimi estimatori per la volontà di dialogo, è Marcello Dell'Utri, il senatore che, sapete, condannato in primo grado, è in processo, il famoso processo di cui tanto si è parlato, anche con la testimonianza di Gaspare Spatuzza, per concorso esterno in associazione mafiosa. Dice: forse è il momento delle riforme, riforme in Parlamento, dice Dell'Utri. D'Alema è il nostro principale referente. Io sono un dalemiano convinto, dice Dell'Utri. Lo sono sempre stato e lo sono ancora. Nonostante la sua insuperabile forza da scorpione che lo spinge a mordere e nonostante le sue battute salaci, resta il migliore di tutti. Più di Bersani? Con Bersani è giusto parlare perché è segretario del partito, ma D'Alema è D'Alema. La sua battuta sull'inciucio è stata efficace e coraggiosa dopo che per mesi il PD si è accodato acriticamente al partito di Repubblica e alla sua campagna indegna. Intanto, questo è Marcello Dell'Utri intervistato dal riformista, intanto il giornale fa un lunghissimo editoriale che sconfina poi a pagina 7 del direttore Vittorio Feltri. Non si capisce bene perché è un Natale in casa Berlusconi. Silvio racconta i suoi dilemmi: tornare o no in piazza tra la gente, sì o no alla scarcerazione di Tartaglia, a quale prezzo fare le riforme con l'opposizione, la legge sul legittimo impedimento. Ecco l'aria che tira ad Arcore, quasi che Vittorio Feltri ci sia stato, però in realtà non lo scrive, fa tutto un racconto di quello che secondo lui frulla un po' nella mente del Presidente del Consiglio in questo momento. In gennaio comincerà la campagna elettorale e, dice Feltri, questo è il tema principale: se per ragioni di sicurezza gli fosse tolta la possibilità di tornare in piazza, avremmo un presidente dimezzato, umiliato e frustrato. E poi, dice ancora all'interno Feltri, bisogna fare certo il legittimo impedimento, è la prima mossa da fare. Che insomma ci sia un clima un po' di tensione lo si evince da alcune dichiarazioni che vengono messe in rilievo da Repubblica, dalla Stampa, dal giornale stesso. Allora, il giornale, il fuori onda di Pardi. Pancio Pardi, senatore, è stato anche nostro ospite di recente, pare che ieri, così almeno ha detto Gasparri, che era ospite nella stessa trasmissione sulla 7, pare che in un fuori onda, cioè durante una pubblicità, Pancio Pardi abbia detto: finché non l'avremo fatto fuori, Berlusconi, questa storia non finirà. Tanto che Gasparri, alla ripresa dopo la pubblicità, sbottato, ha detto: questa è una campagna d'odio. Gasparri dice: attenzione, perché Pancio Pardi parla, è una persona pericolosa per la democrazia, parla come le Brigate Rosse, solo Curcio parlava così. Pardi, che ha detto, ricordo a Gasparri, che dare del terrorista è passibile di querela. Insomma, gli animi si sono un po' esacerbati. Cosa ha fatto invece questo giovanotto che trovate anche su Facebook, tale Fabio Busi? Sembra un nerd, un po' di quelli sfigati da college americani, ventenne, che fa anche, spero per poco, il consigliere comunale in provincia di Lecco, in un paese, Paderno d'Adda. Ha scritto su Facebook: o gli spari in testa o niente, riferito a Berlusconi. Chi è quell'idolo che ha spaccato la faccia a Berlusconi? Si chiede online questo giovane politico, 20 anni, Fabio Busi, consigliere comunale a Paderno d'Adda. Sarà Fini? A parte gli scherzi, ma quanto è ridicolo sto paese. O gli spari in testa o niente. ovviamente subito bufera che è partita da Palermo d'Adda, ma insomma, ricordate, c'è stata anche una vicenda simile di un altro tale, ecco, Matteo Mezzadri, ricordo, che scatenò un altro caso simile sempre su Facebook dicendo: è possibile che nessuno sia in grado di ficcare una pallottola in testa a Berlusconi? Allora poi si dimise tra le lacrime. E chissà se Fabio Busi farà così. Un po' più invece attempato, siede in Parlamento, dunque anche un po' più affermato, e che ha detto una frase non simile, ma insomma ha detto questa frase: per ogni operaio della Fiat che rimarrà a casa tirerei una statuetta in faccia a Berlusconi, più o meno è questo, è il deputato dell'Italia dei Valori Francesco Barbato. Ora, la frase precisa riportata da Libero è questo, da Libero è questa: per ogni operaio della Fiat buttato fuori, io a Berlusconi tiro una statuetta in faccia. Lo ha detto il deputato dell'Italia dei Valori Francesco Barbato. C'è da dire che Di Pietro, il leader del partito, si è subito dissociato, ha detto si scusi se vuole restare nel partito, altrimenti se ne vada, noi siamo gente non violenta, siamo contro ogni forma di violenza nei confronti di chi che sia. Vabbè, insomma, schegge così impazzite. Ora voglio saltare all'altro grande tema, che è quello del maltempo, che trovate ovviamente sui giornali. Il maltempo costa 500 milioni. Oh beh, vi risparmio insomma ancora tutte le cronache che trovate sui giornali, ma basta seguire anche Radio 24, la cronaca puntuale su quelli che sono i disagi per i trasporti. Il maltempo costa 500 milioni, lo leggo dal Sole 24 Ore. Ovviamente è una stima, come scrive Jacopo Giliberto, è difficile fare bilanci precisi, ma il gelo lappone, le nevicate cadute in questi giorni su buona parte dell'Alta Italia e il Centro Italia hanno prodotto danni stimabili in 500 milioni. Si concentra un po' Giliberto a fare il punto, a fare le somme di tutti quelli che sono, per esempio, le camere di commercio, cosa dicono. A Milano pare che il giro di affari saltato sia di 2 milioni e mezzo di euro sulle spese di Natale, visto che i clienti non ci sono stati in questi due giorni nel capoluogo lombardo, ovviamente per difficoltà di muoversi, così come le consegne, affari in picchiata per i commercianti. Insomma, questa stima è una stima abbastanza precisa, mettendo insieme tutte quelle che sono le varie stime delle camere di commercio, le varie associazioni, confederazioni dell'agricoltura, le associazioni di agricoltori, che pensano anche a quelle che è stata la gelata sui prodotti e quindi sulle ricadute prossime dei raccolti. C'è l'altro grande tema che trovate, è quello un po' la polemica su Mauro Moretti, il numero uno di Trenitalia. Ieri, proprio a questi microfoni, il ministro Matteoli ha detto insomma quella frase su portatevi i panini e il maglione per le tratte a lunga percorrenza, una frase infelice, una frase sbagliata, una frase di un uomo stressato. Oggi questa riproposizione del ministro Matteoli la trovate su tutti i giornali. C'è Alberto Statera a prima pagina di Repubblica: il panino di Moretti. Sarà la rivincita della natura sulla velleità degli uomini, sarà la maledizione di Montezuma, ma il fiore all'occhiello dell'alta velocità è appassito in meno di 9 giorni, scrive Alberto Statera, sepolto da un po' di neve negli inferi di bassa velocità. Era il 13 dicembre quando, dopo lo sfarfallio di autorità, bande, campagne pubblicitarie milionari, viaggi inaugurali vippissimi che videro persino lo scambio di cartellino per l'assegnazione dei posti di un banchiere milanese pur di conquistare una poltrona più prossima al Premier, il primo Frecciarossa attraversò la mitica galleria di 75 km sotto l'Appennino tra Bologna e Firenze. Forse è lo stesso treno quello che oggi giace come morto in una tundra bianca, mentre le stazioni di mezza Italia pullulano di fantasmi natalizi. Ovviamente Statera racconta anche un po' di questo viaggio, racconta anche di questo dialogo un po' con Mauro Moretti, che chiedendogli ceglia su ceglia gli chiediamo, avvolti nel maglione da viaggio, se si sente vittima della natura indomabile o della vendetta di Montezuma, nel senso di Luca Montezemolo, che con i soci Diego Della Valle e Gianni Punzo ha creato NTV, la compagnia di treni privati che dal 2011 vorrebbe far concorrenza alle Ferrovie dello Stato. E dice stasera: l'uomo sembra stressato, come ha notato lo stesso suo ministro Matteoli, per l'appunto, ma non perde la replica sapida. Non so se Montezuma ha aderenze anche lassù, perché è convinto che le lobby privatizzatrici stiano lavorando forte contro le ferrovie pubbliche. E poi Moretti che dice: guardate in Francia, guardate in Spagna, non è che tutti i manager europei siano dei coglioni, guardate il tunnel sotto la Manica che deve avere problemi inconfessabili, visto che in galleria c'è aria calda e non è certo il gelo a creare problemi. Insomma, un Moretti che si difende, anche se qualcuno, come il vicepresidente dei senatori del PD, lo ha definito ingegner arrogance. L'uomo sicuramente molto pragmatico, molto molto... è duro, è l'uomo così sul quale si concentra le maggiori accuse. C'è anche il grosso tema dei rimborsi, che oggi trovate sui giornali: i rimborsi sì, i rimborsi no, con il ministro Matteoli che poi nel pomeriggio ieri ha precisato: chiederò una deroga all'Unione Europea per vedere se si possono dare i rimborsi ai viaggiatori per i disagi che hanno subito e che hanno patito. In primo piano. E allora, Fiat pronta a investire 8 miliardi. Leggo dal titolo di apertura del Sole 24 Ore. Ieri è stato presentato a Palazzo Chigi con i sindacati dall'amministratore delegato Marchionne il piano Fiat. La produzione di auto a Termini Imerese cesserà dopo il 2011. Questo è ovviamente un altro grande tema che farà discutere. Lo ha confermato ieri l'amministratore delegato, appunto, della Fiat Marchionne, presentando il piano per l'Italia a Palazzo Chigi. Resterà invece aperto lo stabilimento altro del sud, quello campano di Pomigliano d'Arco, che dovrà però sottoporsi a un processo di riorganizzazione per ospitare la nuova Panda. Si legge a pagina 3: chiude Termini, salva Pomigliano. Le residue speranze di Termini Imerese si spengono dopo un vertice a Palazzo Chigi durato oltre 3 ore, scrive Carmine Fotina. L'amministratore delegato Marchionne è categorico nel confermare che lo stabilimento siciliano cesserà di produrre auto dopo il 2011, perché il contesto che in passato ha consentito di bilanciare i sovraccosti dell'impianto si è dissolto con la crisi e adesso c'è solo da prendere atto che farsi carico del problema sociale di Termini non è una responsabilità di Fiat. E queste sono parole virgolettate di Marchionne. Ovviamente il ministro Scajola ha scelto al Termine di diffondere solo una sintetica nota che recita così: subito un tavolo con la Fiat, la Regione Sicilia e i sindacati per definire il futuro industriale di Termini Imerese e tutelare l'occupazione. Mentre l'altro articolo, che si concentra sul piano in generale, è di Andrea Malan. Piano da 8 miliardi, come detto, in Italia ci saranno 2/3 di questi investimenti. Fiat mantiene gli investimenti in Italia in un momento congiunturale difficile. Questo è uno dei passaggi, appunto, principali di Marchionne, che servono in qualche modo ad addolcire governo e sindacati, addolcire la pillola della chiusura annunciata dei Termini Imerese. Il piano prodotti prevede 17 modelli, conferma che la ripartenza vera arriverà nel 2011. Per l'anno prossimo le vetture interamente nuove sono 3: il Doblò appena presentato, l'Alfa Romeo Giulietta che arriverà al Salone di Ginevra e un SUV Chrysler. Per il 2011 previsti 2 modelli chiave come le nuove Panda e Ypsilon, cui si aggiungerà un monovolume piccolo in 2 versioni. Ovviamente questo è il tema trattato anche da altri giornali. Per esempio, appena si è sparsa la notizia della fine del dialogo, del tavolo a Palazzo Chigi e dell'annuncio della chiusura di Termini Imerese al 2011, gli operai interrompono lo shopping. Leggo da Repubblica: subito corteo di 400 lavoratori di Termini e Pomigliano fino a Piazza Venezia ieri dopo il sit-in. La protesta, che è iniziata ieri ma è annunciata anche per oggi, ovviamente continuerà nei prossimi giorni, con tra l'altro Marchionne che si è lasciato sfuggire questa frase a chi l'avvicina all'uscita da Palazzo Chigi: è stata una scelta sciagurata quella di organizzare questo incontro 2 giorni prima di Natale. Perché insomma, adesso bisognerà capire. Ieri è arrivata in tarda serata, in serata, diciamo, questo primo annuncio. Bisognerà capire già da oggi che succederà. E vi ricordo, appunto, che Oscar Giannino ne parlerà dalle 9 alle 10, 9 in punto, del piano Fiat, delle conseguenze. Fiat Monti, e questo è il titolo d'apertura del Manifesto, gioca su Full Monti. Perché? Perché ci sono le foto di 5 bei giovanotti tutti nudi, insomma si immagina operai della Fiat che si riciclano così facendo full monty, un po' come nello strepitoso film Fiat Monty, il piano industriale di Marchionne mette a nudo la fabbrica di Termini Imerese, niente più automobili dalla fine del 2011. L'altro tema economico, che per la verità è stato già annunciato e ne abbiamo parlato ieri, ma c'è stata appunto questa accelerazione e conferma, è quello del nucleare. Varato il pacchetto nucleare, leggo da Economia e Impresa del Sole 24 Ore. Scaiola, bollette meno care del 30%, ci saranno incentivi anche per il deposito delle scorie. Insomma, c'è stato il primo via del governo al decreto sulla localizzazione delle centrali e che cosa? Anche sulle compensazioni da dare agli enti locali e ai cittadini. Si parlava di questo 30 milioni di euro circa per quei comuni, un po' alle imprese, un po' ai comuni, un po' ai cittadini sotto sgravi della bolletta, che accettano di avere una centrale nucleare sul proprio territorio. Tanto che questa è l'apertura dell'Unità, in prima pagina c'è mala tempora, è un sole che non ride, il simbolo diciamo del nucleare, Italia nucleare da nord a sud del paese, ecco le aree dove sorgeranno le centrali e i siti di stoccaggio. Ripeto, non è che ci siano i comuni, i nomi eccetera, ma è stata identificata un'area, alcune aree, diciamo le caratteristiche di alcune aree, e tra l'altro io quando ne abbiamo parlato una settimana fa ho detto che secondo me umilmente non si saprà niente prima delle elezioni regionali, ora già si fa capire che insomma i siti, lo scrive per esempio La Stampa, verranno comunicati a regionali archiviate, certo il tema è scottante sotto campagna elettorale. L'Unità fa anche 2-3 pagine interne, c'è anche un'intervista ad Ermete Realacci che oggi è senatore del PD, è ex presidente di Lega Ambiente, dice è sbagliata come scelta, insomma il tema solitamente dibattuto, non è la soluzione per l'Italia, i costi li pagheremo in bolletta. E anche Avvenire decide di aprirci, mezzo passo nucleare, il titolo di apertura di prima pagina, stabiliti i criteri per individuare i siti e sulla futura mappa è subito battaglia. Per esempio, chi ha già detto, ha fatto capire che storce un po' il naso? È Luca Zaia. Luca Zaia oggi è ministro, ma sapete, è stato scelto per correre come centrodestra governatore del Veneto, con non grande gioia dell'attuale presidente Galan, al quale però, scrivono oggi i giornali, è stato promesso un ministero e dunque diventerà ministro, diciamo come compensazione al fatto che non è stato riconfermato come candidato del centrodestra alla regione Veneto. No centrali in Veneto. Insomma, Luca Zaia, la Lega torna ambientalista, questo leggo su Libero. Non è che si è espresso in maniera così categorica, ha detto non conosco il dossier perché è di competenza di Galan, ha detto Zaia, ma nel caso in cui dovesse occuparmene valuterò questo dossier approfonditamente. Ad ogni modo rispetterò la volontà della cittadinanza. Come dire, scrive Libero, che è pronto a fare le barricate ma ora non lo può affermare perché siede in quel governo che le centrali ha deciso di tirarle su. Insomma, quindi già Luca Zaia non è che ha detto come è la linea Galan, sì, facciamo il nucleare senza problemi. Voglio andare alle segnalazioni conclusive, vi segnalo sul Sole 24 Ore la vicissitudine in prima pagina di un cittadino che si è visto arrivare dal comune di Lampedusa Linosa questa richiesta: gentile signore, lei ci deve un centesimo e se non sarà così solerte da versarcelo entro 15 giorni, avvieremo la riscossione coattiva, debitando le ulteriori interessi moratori e le spese. Insomma, è un avvocato romano, proprietario di una casa sull'isola, che ha compiuto il gravissimo errore di aver versato 56,38 euro anziché 56,39 euro, dunque un centesimo di euro rubato alla collettività. E niente, è arrivata questa che viene definita da Marco Bellinazzo sul Sole, una cartella pazza dal comune, un centesimo di euro ce lo restituisca, altrimenti arriviamo alla riscossione coattiva. Chiudo solo con la segnalazione di sport, la trovate ovunque, ma sulla Gazzetta più in risalto. Zidane e la famosa testata nella famosa partita che ci diede il mondiale nel 2006. Dopo 3 anni e mezzo ci ha messo una grande macerazione interiore, ha detto: l'espulsione nei miei confronti ai mondiali? Sacrosanta e giusta. Se avessi vinto non sarei mai stato a posto con la coscienza. Ce l'ha fatta anche lui a capire che aveva fatto una gran cazzata. Allora ci fermiamo, il sondaggio votatelo, volete l'inciucio, sarà l'anno dell'inciucio politico quello del 2010, l'anno 2010? Eccoci qua alle 8:16, ben ritrovati con 24 Mattino, è il momento dell'economia. Soldi e dintorni. Ci siamo con Deborah Losciani. Esatto, senza avventure rocambolesche questa mattina per raggiungere il posto di lavoro. Si gira per Milano, insomma, molto qualche più disagio serenamente, sì, sui marciapiedi. Non mi si è aperto il bagagliaio della macchina, ghiacciato. Vabbè, capito. Ma che avventurina. È Natale anche così, dai, se ma no. Sì, guarda, ma no, ma va benissimo, va benissimo. A proposito di Natale, tra l'altro, come stai messo con i regali? Tutto fatto. Tutto fatto? Niente, tutto volevo fatto. Coglierti in castagna, stamattina non ci riesco neanche oggi. Quindi li hai fatti tutti con tranquillità, per cui beh, insomma... questo poi non lo so, però ho fatto. No, ti è mai capitato ovviamente di fare un regalo, regalarlo, consegnarlo al destinatario e scoprire che o non piace o non va bene di misura o è difettoso o c'è qualche problema per cui va cambiato? La tecnica è sempre questa, tanto non me lo dicono. Invece c'è chi molto onestamente ammette che magari il regalo non va bene anche perché può capitare per la misura. Vabbè, Io lo faccio al mio nipotino, chiaramente se sbaglio la misura devo cambiarlo, magari prenderlo più grande. E allora quello che ci interessa sapere, visto che oggi probabilmente molti faranno gli acquisti dell'ultima ora, come tutelarci anche in frangenti di fretta come quelli che potrebbero capitarci proprio oggi. Allora stamattina facciamo questa chiacchierata con Massimo Vivoli, vicepresidente vicario di Confesercenti. Vicepresidente, buongiorno. Buongiorno. E naturalmente buon Natale, ormai mancano un paio di giorni. Grazie a lei e ai suoi telespettatori. Per gli esercizi commerciali magari un Natale un po' meno sereno rispetto agli anni passati, forse non tanto a quello dell'anno scorso perché già eravamo un po' in difficoltà, ma magari insomma abbiamo avuto periodi migliori, Vivoli? Sì, abbiamo avuto sicuramente periodi migliori, questo non è un per gli esercizi commerciali un buon Natale, però ecco, noi siamo molto fiduciosi anche negli acquisti dell'ultima ora, ecco, i commercianti hanno vetrine addobbate di tutti gli articoli, hanno nei magazzini sicuramente molto assortimento, che speriamo che perlomeno anche questi due giorni qui cerchino di far rialzare un momentino le vendite. E infatti certo che anche il maltempo negli ultimi giorni non ha aiutato purtroppo. Detto questo, voi come fa anche la vostra associazione collega Confcommercio prima del Natale, fate sempre un po' un monitoraggio su quelle che potrebbero essere le intenzioni di spesa dell'anno dei consumatori, e quest'anno Confesercenti SVG con il sondaggio pubblicato, divulgato ad inizio mese, aveva rilevato che 12,3 milioni di famiglie, il 51% del campione interpellato, ritiene che sarà un Natale improntato alla speranza di più rispetto all'anno passato. L'anno scorso l'ansia infatti era maggiore, visto che eravamo freschi freschi e nel pieno della crisi finanziaria. E però ho anche letto, Vivoli, che per molte famiglie cala la percezione della festa come un momento di austerità quest'anno, ma anche chi prevede difficoltà, quindi un po' la forbice si è allargata. Lei qual è la percezione che ha fra i consumatori che magari entrano direttamente in contatto con lei, perché lei è un commerciante peraltro, no? Sì, sì. Giustamente, sì, ovviamente. Sì, sicuramente un Natale, come si vuol dire, senza esagerare, diciamo, un pochino meno austero rispetto a quelle che erano le previsioni di qualche mese fa, però sicuramente un Natale molto, ma molto, diciamo così, improntato al senso del risparmio, perché il futuro, diciamo così, c'è molta preoccupazione nel doverlo, cioè, vedere in crescita per il nostro paese, che c'è il problema occupazione, che è sicuramente quello che rende le famiglie, diciamo così, nel momento della spesa molto, ma molto, diciamo così, attente. Più prudenti. Molto più prudenti. Sì. Quest'anno, ovviamente, come tutti gli anni, comunque molte famiglie confideranno anche nell'utilizzo della tredicesima. Molte tredicesime saranno destinate anche un po' a sistemare magari situazioni finanziarie pendenti, a pagare bollette arretrate, a sistemare anche magari qualche debituccio arretrato. E però è anche vero che, come dire, psicologicamente, forse nei momenti di difficoltà si è un po' più portati ad appagare, a gratificarsi, no? Con un regalo, e chissà che questo Natale magari proprio non riservi sorprese dell'ultima ora anche in virtù di questo aspetto, chiamiamolo così, psicologico. Cibo, vino, abbigliamento e libri sono a quanto pare le scelte di regalo principali quest'anno, poi ci sono giocattoli e tecnologia, seguono gli elettrodomestici. Abbiamo un numero di telefono, Presidente, la lascio spegnere l'altro telefono. Si fanno acquisti di fretta, dicevamo, quali sono le regole per evitare brutte sorprese? Per esempio, nel settore dell'abbigliamento, Vivoli, io compro un capo, lo consegno domani a mia nonna, a mia zia, scopro che non va bene di misura, quanti giorni ho per cambiarlo, visto che per esempio i negozi poi saranno chiusi fino al 28? Sì, diciamo che in molte città comunque i negozi riaprono il 26, in tante città turistiche, molti negozi, Santo Stefano. I commercianti tra l'altro espongono i cartelli che la merce che viene regalata nel periodo natalizio può essere cambiata, in special modo nel senso che abbigliamento e calzature può essere cambiata entro il 31 di dicembre. Diciamo che il rapporto tra esercente e consumatore è improntato nella stragrande maggioranza al rapporto, diciamo così, di fiducia, di clientela, parlo tradizionali, che sicuramente possono diciamo così, andare nei negozi e certamente se il prodotto non è la misura o se il prodotto va cambiato, comunque c'è sempre la disponibilità da parte degli esercenti. Però magari insomma è sempre meglio stabilirle dall'inizio queste regole. Magari ecco. Chiederlo sicuramente, ma rientra, sa, nella stragrande maggioranza del rapporto clientela e negozio tradizionale è diciamo così, è un rapporto che viene anche da tempo, un rapporto, insomma, i negozi vicino casa, sia nel settore abbigliamento, calzature, che poi sono quelli o anche elettronico o meno, c'è un rapporto, diciamo così, diretto, un fatto molto, ecco, sulla fiducia. Però ecco, io da quello che so dalle regole generali, almeno quelle che suggeriscono le associazioni dei consumatori, in media addirittura, come dire, fa fede lo scontrino che si deve conservare. Sì, giustamente. Facciamo giustamente. Magari anche la fotocopia perché lo scontrino su carta lucida scolorisce, esatto, però almeno un paio di mesi di tempo addirittura possiamo avere per cambiare un articolo o difettoso che non ci va bene o che non piace. Sì, diciamo che per dare incontro, vi avevo detto prima che molte attività commerciali espongono proprio un cartello all'interno delle proprie attività, in quanto fino al 31 dicembre si possono cambiare, perché lei sa benissimo che poi dal 7 di gennaio nella stragrande maggioranza delle città italiane cominciano i saldi nelle attività commerciali. Infatti. Diciamo così, per avere, diciamo, la possibilità allo stesso consumatore per poter cambiare il prodotto, per trovare, diciamo così, la misura, l'articolo, cioè questo più che altro è per venire incontro alla clientela, ecco. Poi nella stragrande maggioranza il patrimonio di un'attività commerciale non è la merce esposta dentro, ma è la clientela. Sicché diciamo che già come associazioni, sia noi che l'altra associazione, veniamo sempre incontro, ecco, sugli indirizzi, in un rapporto anche con l'associazione dei consumatori. Ecco, chiaramente io tra l'altro mi sto soffermando con lei che, se non ricordo male, è un commerciante nel settore dell'abbigliamento, giusto? Mi sto soffermando soprattutto sui capi d'abbigliamento. Sì. Ecco, le garanzie sono diverse a seconda della tipologia di articolo che si acquista. Per l'abbigliamento vale un certo periodo, per il regalo tecnologico, che generalmente, dottor Vivoli, è corredato di una garanzia a sé stante, il periodo è differente se per la restituzione, qualora non ci andasse bene, fosse difettoso, non funzionante? Sì, diciamo che nella tecnologia, nell'hi-fi, in questi settori qui sicuramente vale molto la garanzia, nel senso che poi il prodotto nel settore abbigliamento e calzature, il prodotto può essere sempre cambiato se non fa quella riuscita, diciamo così, che il valore del prodotto, cioè il prezzo del prodotto, la qualità del prodotto viene garantita dal commerciante, ecco. Diciamo che io gli ho detto il periodo in cui può essere cambiato, nel senso dell'errore della misura o del prodotto che non piace, oppure di un qualcosa che è nel momento, però vale sempre la garanzia nel tempo, anche se nei prodotti elettronici vale sicuramente la durata della garanzia. Certo. Un'ultima domanda, dottor Vivoli. Allora, lei prima parlava degli sconti, in molte città italiane prenderanno il via il 2 gennaio, per cui quest'anno si parte molto presto, proprio per magari tentare di recuperare una stagione che non è andata benissimo, quella autunnale, questo inizio d'inverno. E però in molti negozi, io l'ho notato anche a Milano, le strenne natalizie sono già partite, non sono sconti ufficiali, ma naturalmente i commercianti hanno dovuto aggredire questa crisi. Ecco, in questo caso, qualora io avessi acquistato un articolo già in saldo, perché il sistema delle tutele nei periodi di saldi è differente rispetto ai periodi tradizionali, anche se le associazioni dei consumatori ci dicono che i commercianti devono comportarsi sempre nello stesso modo, le regole valgono anche in questo caso. Se acquisto un prodotto adesso in saldo, prima della partenza della stagione ufficiale, e non mi va bene? Ma vale lo stesso, guarda, io vi posso garantire, girando l'Italia dalla Lombardia alla Sicilia, la stragrande maggioranza della rete commerciale, e questo lo sanno bene anche l'Associazione dei Consumatori, è fatta da imprese commerciali e dei servizi, nella sua stragrande maggioranza, che ha un grande rapporto con la clientela e tiene sicuramente, diciamo, sia a fidelizzarla, sicché qualsiasi tipo di rapporto per quanto riguarda la vendita o il prodotto sicuramente da cambiare vale sia nel periodo delle vendite normali come quelle dei saldi. Ecco. Però molto spesso i negozi non ci permettono di fare lo scambio della merce in saldo. Ma uno sicuramente le regole valgono sempre, perché nel momento in cui il prodotto non è corrispondente per quello che io l'ho pagato e l'ho preso, cioè l'esercente è obbligato, cioè nel senso, a cambiarlo, perché se un prodotto io lo prendo oggi e domani mattina lo indosso e per dire non fa quella riuscita che deve fare, sicuramente, cioè io mi ho tutto il diritto di farmelo cambiare. Sicuramente il commerciante, guardi, la figura oggi del mondo delle imprese in Italia, in special modo quelle del commercio, fidelizzano molto la clientela, tengono molto al patrimonio che oggi è il servire. Quello che fa la differenza oggi nella rete commerciale, un pochino su tutto, è il rapporto, è la qualità, ma anche la qualità del servizio. Però insomma, Presidente Vivoli, io devo salutarla perché Soldi e Dintorni è terminata. Allora, per l'acquisto dell'ultima ora l'importante è mettere le cose in chiaro sin dall'inizio con il commerciante e quindi farci dire subito le indicazioni sui tempi entro i quali possiamo cambiare l'articolo qualora questo risultasse non adeguato alle nostre esigenze. Tra l'altro Vivoli sarà con noi anche alla ripresa di Salvadanaio il 28 alle 12, perché faremo proprio il punto sui saldi che prenderanno il via il 2 gennaio, per cui Presidente, Vicepresidente, anzi, buone feste, ci sentiamo il 28. Anche a lei la ringrazio, molto gentile, a lei e ai suoi telespettatori. Grazie mille, arrivederci. Grazie. Alessandro. E per quelli che invece non sono andati in negozio e quest'anno hanno fatto molti acquisti online su internet, noi a queste persone ci rivolgiamo oggi a Salvadanaio alle 12. Commercio elettronico, come è andato quest'anno? Alle 8.32 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, le notizie in primo piano, ancora gelo al nord e disagi nei trasporti, aeroporti e treni restano nel caos, scuole chiuse a Bologna e Modena. Vi ricordo il prossimo appuntamento con Via Libera, con il traffico tra 15 minuti circa. La politica, il presidente del Consiglio Berlusconi dice: perdono il mio aggressore Massimo Tartaglia, ma spero che i giudici non lo liberino troppo presto. Ieri telefonata di disgelo tra il premier e il capo dello Stato Napolitano. Parleremo di politica e riforme tra poco nel nostro sondaggio. 8 miliardi di investimenti in due anni, ma chiusura dal 2011 dello stabilimento di Termini Imerese. Questo è il piano per l'Italia presentato ieri dal numero uno di Fiat Marchionne. I lavoratori dello stabilimento siciliano annunciano proteste e scioperi. E ne parlerà Oscar Giannino alle 9. Infine, ci ha messo 3 anni e mezzo, ma ora si dice pentito. Zinedine Zidane, in un libro, racconta la famigerata testata a Materazzi nella finale dei mondiali di calcio e dice: per fortuna c'era la moviola, la mia espulsione è stata giusta. E allora 8.33 minuti, è il momento del nostro sondaggio di oggi. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero, il sondaggio di Radio 24. Parliamo di politica. Inciucio, quante volte abbiamo sentito questa parola. Ne parliamo perché qualche giorno fa Massimo D'Alema ha parlato in un convegno, ha detto che alcuni inciuci storicamente sono stati utili per la convivenza del nostro paese, ecco che da lì è ripartita questa idea, il dialogo, riforme, inciucio. Sarà l'anno dell'inciucio il 2010, dell'inciucio politico, del dialogo, del mettersi insieme, del superare l'odio e discutere? Che ne pensate? C'è da dire che per ora prevalgono i no, anche se di poco, insomma sul 61%. Ne vogliamo parlare con tre ospiti che saluto. Il direttore di Libero, Maurizio Belpietro. Direttore, buongiorno. Buongiorno a tutti. Così come saluto Bruno Tinti, buongiorno, ex magistrato. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a Tinti. A lei. Scrive su Il Fatto Quotidiano. E Stefano Menichini, direttore di Europa. Benvenuto, direttore. Buongiorno, benvenuti, bentrovati. Allora, io partirei da Bruno Tinti, da quello che lei ha scritto ieri sul Fatto. Ne voglio leggere solo uno stralcio. Lei dice, insomma, appellandosi ai vari politici che chiedono il dialogo, dite, ma insomma, cari politici, non sapete che si deve dialogare con i puri di cuore? Come fate? Che collaborazione può mai esservi con Berlusconi? E poi lei scrive, vorrei che questi uomini politici che chiedono il dialogo si chiedessero se questo compromesso che oggi propongono agli elettori sembrerebbe loro ugualmente praticabile se l'interlocutore istituzionale fosse qualcuno assolto per prescrizione di reati di omicidio, rapina, traffico di droga, sequestro di persona. Vorrei che mi spiegassero quale differenza sono in grado di scorgere tra chi ha commesso uno o più di questi reati e chi ha commesso corruzione, frode fiscale, falso in bilancio. Vorrei che mi spiegassero perché si rifiuterebbero di collaborare con un rapinatore o un trafficante di droga e invece ritengono normale collaborare con Berlusconi. Ora, Tinti, non so, il paragone è... Cioè, vuole paragonare Berlusconi a un trafficante di droga? No, naturalmente. No, naturalmente. Ovviamente. No, voglio dire che Berlusconi è stato assolto per prescrizione da reati. Ora, l'illecito penale, dal mio punto di vista, resta un illecito penale qualsiasi sia il tipo di condotta che l'ha originato. Un rapinatore ha commesso un reato. E così uno che froda il fisco ha commesso un reato. Allora io mi chiedo, se non si vuole collaborare con chi ha commesso il reato di tipo A, il rapinatore, perché si dovrebbe collaborare con chi ha commesso il reato di tipo B, cioè la frode fiscale? Lei non ha citato, poi naturalmente per via del tempo, il pezzo successivo, sì. Lo si potrebbe anche fare. Chiunque può cominciare una nuova strada, bisogna che dia garanzie di essere cambiato, ma ha senso collaborare con una persona che dice intanto non mi fate processare perché altrimenti, e l'altrimenti è la minaccia, io vi sfascio tutto il sistema penale. E allora uno dice, beh, allora però per non avere questo collaboriamo. Ecco, a me questo sembra irragionevole. Irragionevole. Direttore Belpietro, lei ieri ha detto forse questa è l'unica strada ora percorribile. C'è il clima politico, il presidente Napolitano dice non lo vedo, forse ci sarà ma non lo vedo. Ma il clima politico, certo, se stiamo retta alle parole di Bruno Tinti e alle parole dei suoi colleghi del Fatto, il clima politico non c'è, ma del resto... In Italia c'è una parte che non ha nessun interesse a volere delle riforme, a volere davvero degli accordi, perché ha interesse a mantenere la situazione attuale, lucra sulla situazione attuale, perché è la solo a rendita di posizione. L'Italia dei valori, per esempio, se non avesse l'elemento giustizialismo, cosa sarebbe oggi in Italia? Se ne si ha notizia di qualche proposta politica fuori dall'argomento della giustizia? No, tranne è abbastanza bizzarro vedere Di Pietro che scende in piazza insieme a dei lavoratori quando, voglio dire, si è mai occupato delle questioni o di una sola proposta economica. Beh, certo fa pensare che sia difficile fare ragionamenti con questi, però detto questo c'è una parte politica che io credo invece abbia a cuore le riforme, non penso soltanto a ruoli istituzionali come quelli del capo dello Stato, penso che anche dentro il PD ci sia qualche interesse. Del resto, a parte l'incredibile accostamento tra un criminale e un presidente del Consiglio, che ha già questo, insomma, la dice lunga, ma riflettiamo su una cosa. È ovvio che per chi viene da alcune posizioni comunque, anche se non c'è una condanna, che sia per archiviazione o per prescrizione, a prescindere, lo si è visto nel caso Andreotti, è colpevole, anche se c'è una condanna di assoluzione. Ma detto questo, sa che su quello, direttore, però tutte le volte si tocca Andreotti, sì, c'è, sì, la, c'è la questione che è stato prescritto Andreotti, bisogna dire che una sentenza lo ha assolto, invece, però c'è, ha prescritto un'altra parte, che bisogna dire, ah, ma forse c'era qualche cosa, perché c'è un passaggio, siccome in Italia non si bada al risultato, e cioè l'assoluzione, si pensa, ma c'è una parola, c'è una frase. Sì, dicono che l'hanno archiviato, ma forse non l'hanno trovato, l'hanno archiviato perché non c'era. Quindi, con questo si tengono aperti i processi per la vita in Italia. E le sentenze, qualche volta, devo dire, anche quando le procure non hanno in mano niente, sono costrette magari a chiedere l'archiviazione, però lasciano aperta la porta perché non si sa mai. Sì, sì, c'è che la volevo... Che per una parte, la prima parte è stata prescritta, ma la vicenda di Andreotti, poi ogni volta che ritorna tutte fuori, poi bisogna... comincia con questa storia. C'è una soluzione, se ne facciano una ragione. Punto. E nel caso di Andreotti c'è una soluzione, e come tanti altri casi, ma per le procure non vale, no? È sempre aperto. Ma no, ma volevo aggiungere un piccolo elemento. Con questo ragionamento avremmo definito in ciuccio anche quello costituente, quando Togliatti, De Gasperi e Dossetti si sedettero intorno a un tavolo e cominciarono a ragionare della Costituzione. La mediazione politica, ci sono studi noti, insomma, che definiscono la Costituzione il compromesso costituente. Perché ci fu una mediazione, perché si trovarono delle intese, e i comunisti e i democristiani in quel momento non è proprio che si rispettassero, venivano da una delle più incredibili battaglie politiche, quindi insomma, cioè, c'era stato quello, si è visto dopo cosa è successo, poi, no? Gli insulti, le cose che sono volate, cioè, nonostante hanno fatto un accordo. Ma su questo è chiaro, io insomma le posizioni sono molto chiare, lei direttore Belpietro dice così, Bruno Tinti dice non si possono fare accordi con chi è stato assolto per compiuta prescrizione, dunque giudicato colpevole, ma non voglio insomma entrare nel dettaglio cosa vuol dire prescrizione dal punto di vista giuridico, perché altrimenti ci porterebbe altrove. Vorrei andare dal direttore d'Europa Stefano Menichini. Direttore, ieri leggevo su Europa dire qui non leggerete mai che per carità non si possono fare accordi con nessuno, con Berlusconi giammai, eccetera. Allora la palla politica è all'interno del PD ora, dove si sono già riviste i Veltroniani, i Franceschiniani, che poi sono un po' la stessa cosa, i D'Alemia, i Bersaniani, i Bindiani, questo PD che farà? Bisogna isolare Di Pietro o non bisogna isolare Di Pietro? Bisogna dialogare o non bisogna dialogare? Sì, ma no, le leggi ad personam, sì, ma mettiamoci a un tavolo. E quindi? Beh, il Partito Democratico in questo momento non è tanto in una buona situazione, perché intanto perché Bersani aveva puntato tutte le sue carte su una presenza del PD sulla scena politica che fosse incentrata sulle questioni della crisi economica, delle necessità delle famiglie, della disoccupazione, e viceversa questa mossa che si è ritrovato da parte del suo principale sponsor interno al PD, cioè D'Alema, ha riportato il Partito Democratico su un terreno dell'agenda politica che è scomoda obiettivamente per il PD, e quindi le difficoltà, e quindi di nuovo da una parte la pressione di quelli, come sentivo prima il dottor Tinti, si sentono sempre dentro la guerra civile a bassa intensità che percorre l'Italia da 15 anni a questa parte, e dall'altra parte quelli come i berlusconiani di più stretta osservanza che come precondizione per entrare dentro un dibattito sulle regole che dovrebbero riguardare tutti, esigono dal PD di pagare prezzi politici molto alti, la rottura dell'alleanza con Di Pietro e appunto l'abbandono di un'opposizione che invece ovviamente dovrebbe essere nei confronti del governo Berlusconi un'opposizione vibrante, ma invece i toni dovrebbero diventare più moderati, eccetera, eccetera. Ora, io che non ho nessuna preclusione di tipo morale verso la discussione e il compromesso, ho invece delle perplessità sulle condizioni politiche pratiche in cui questo potrebbe verificarsi adesso. Noi stiamo entrando in 80 giorni di campagna elettorale per una scadenza, le regionali di marzo, che tradizionalmente e in questa occasione in particolare è cruciale per le sorti della legislatura. Le elezioni regionali delle ultime legislature sono sempre state delle elezioni con un alto significato politico e hanno sempre segnato l'inizio del declino dei governi del tempo, di centrosinistra o di centrodestra che fossero, che poi alla fine della legislatura sarebbero stati tutti quanti sempre puntualmente bocciati dagli elettori. Sì. Questo è il significato delle elezioni regionali di marzo. Berlusconi lo sa e punta molto invece su una sua ripresa elettorale in quell'occasione. Ora è chiara, l'agenda politica per quella scadenza di Berlusconi è chiarissima, ci vuole arrivare avendo portato a casa non so se il processo breve, sicuramente il legittimo impedimento, il lodo Alfano costituzionalizzato, incardinato nella discussione parlamentare, forse l'immunità parlamentare. Una tutela giudiziaria, insomma, un qualcosa, uno scudo giudiziario. E dall'altra parte la speranza di una ripresa economica e provvedimenti come quelli del ministro Tremonti di gennaio che dovrebbero aiutare appunto la ripresa. Qual è l'agenda del PD? Qual è la convenienza del PD dentro i prossimi tre mesi a stare dentro questo percorso tracciato da Berlusconi e, come riportano i giornali stamattina, tracciato con grande determinazione? Ecco, io la vedo un po' debole la convenienza del Partito Democratico, parlo in termini oggettivi, e ricordo che all'inizio della legislatura Veltroni e Berlusconi erano andati persino più avanti dal punto di vista del disgelo e del reciproco riconoscimento. È durata pochissimo, però insomma è stata una pagina. E guarda caso la data di scadenza di quel dialogo fu un lodo Alfano di nuovo, fu la ripresa dell'offensiva giudiziaria verso Berlusconi, fu una manifestazione di Piazza Navona quando Di Pietro e tutto il mondo, diciamo, giacobino intorno a lui esercitò per PD un forte ricatto di tipo morale. Allora, io su questo, direttore, devo andare al traffico. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Allora, sarà l'anno dell'inciucio il 2010, sempre il 61% dice di no. Bruno Tinti, le chiedo, mi sono segnato due parole, due espressioni del direttore di Europa Menichini. Lei si sente in una guerra civile a bassa intensità o ha una preclusione morale nei confronti di Berlusconi? Ma sa che me l'ero segnata anch'io questa frase che trovo molto molto intelligente, se posso esprimere sì. In questo modo. Quale delle due? Quale delle due? Che ha una preclusione morale o che è una guerra civile? No, non ho nemmeno una preclusione morale, certo, ce l'ho la preclusione morale, ma il problema non è questo. È che in effetti, secondo me, c'è la guerra civile a bassa intensità, una guerra civile tra il rispetto della legalità e invece la sopraffazione della legalità. Questo fa sì che poi non si possa accettare la parola compromesso, ma sotto questo profilo, perché in realtà in politica, credo, si deve parlare di collaborazione. Ora si può collaborare con persone che hanno davvero a cuore la salute nazionale. Quando si fece la Costituzione, ovviamente, no? Vi parteciparono persone che partivano da premesse assolutamente diverse, perfino opposte, ma non si trattò mai di compromessi, tutti portavano il loro contributo perché tutti avevano di mira lo stesso obiettivo, la salute finale di un'Italia uscita così come... E qui lei dice invece no, cioè Berlusconi ha il suo obiettivo. Non è una collaborazione, è una sorta di estorsione fatta da una persona che ha un obiettivo completamente diverso dalla salute pubblica, deve portare a casa la sua impunità dai processi e dai reati. Vediamo su questo punto, Belpietro, vorrei, perché insomma, una sorta di estorsione, insomma, l'estorsione che Berlusconi starebbe facendo al paese, non so, al Parlamento, alle forze politiche per proteggersi lui. Vede, questa è la solita sciocchezza che viene usata, cioè sono 15 anni che Berlusconi è al centro di inchieste giudiziarie, inchieste che producono gemmazione di nuove inchieste, tutte le volte che si arriva a un punto se ne riapre, si riparte da un altro. Quindi il vero tema è questo, ma capisco anche, per la verità, che per alcuni procuratori l'unica collaborazione possibile è quella con Spatuzza, Quella è l'unica collaborazione. Lì invece si può trattare anche con un criminale che ha ucciso 40 persone, lì bisogna dargli i benefici perché c'è un obiettivo alto. Qual è l'obiettivo alto? Incastrare Berlusconi. Ma certo, ma la capisco benissimo questo. Ed è per questo, secondo me, che l'interesse di chi ha davvero a cuore il paese è quello di arrivare a un punto di tutta questa vicenda, trovare delle riforme che, come ha spiegato ieri Bersani, certo riequilibrino anche la questione giudiziaria, il rapporto tra giustizia e politica, e facciano sì che insomma non ci siano delle invasioni di campo. E allo stesso tempo se magari si possa ipotizzare anche la reintroduzione dell'articolo 68 sull'immunità parlamentare, lo dice Bersani, non l'ho detto io. E perché dice questo? Ricorda quello che oggi definirebbero un inciucio, cioè l'accordo dei padri costituenti, i quali pensarono che l'indipendenza della magistratura, il PM che non è controllato dall'esecutivo e non riceve per esempio delle indicazioni sulle inchieste da fare, sulla priorità dei reati da seguire, come avviene per la verità in altri paesi, fosse questa indipendenza controbilanciata però da una tutela del potere politico che altrimenti rischiava di essere messo nel mirino della magistratura. Non erano periodi storici ben diversi, direttore, allora si veniva dal fascismo e quindi c'era questo tipo di tutela da dare, insomma si possono applicare lo stesso principio su periodi storici così diversi, come si fece con la Costituzione anche su questo? Si possono applicare perché sono 15 anni che discutiamo di giustizia e non si fa niente. Di inchieste sulla politica, non siamo andati avanti d'un passo, evidentemente un problema c'è, lo riconoscono persino molti ormai anche a sinistra, e evidentemente bisogna fare qualche cosa perché non possiamo passare la nostra vita a discutere di questo problema. Allora, possiamo passare forse la nostra vita a discutere vero. Di economia finanziaria, pensioni e tutto il resto. Ma no, di giustizia si parla solo in Italia. No, non è vero che si parla solo di questo. Vediamo se due ascoltatori che ne pensano. Michele da Bari, buongiorno. Lei è per l'inciucio, un inciucista? Buongiorno, io sono contro l'inciucio. Contro l'inciucio. Vorrei chiedere una cosa a Belpietro, che nonostante che lo vedo in tutte le trasmissioni, ma pure alla radio me lo devo stare a ritrovare. Vabbè insomma, che è la prima volta che lo invitiamo, anche perché io ascolto molto più la radio che di sì, la TV, quindi dica faccia una cosa, ma come mai oggi la maggioranza vuol fare le riforme con il consenso dell'opposizione? Fino adesso ha sempre fatto le leggi a colpi di maggioranza, fiducia, decreti, solo questo volevo chiedere. Perché vuole coinvolgere l'opposizione? Va bene, teniamo la domanda lì. Comunque lei è contro l'inciucio. Mauro da Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno. Lei che dice? Io sono per l'accordo più che per l'inciucio. E soprattutto ho chiamato però stamattina, sentendo sì. Le parole dell'ex magistrato, mi si è ghiacciato il sangue, non tanto per il freddo che c'è fuori. Bruno Tinte, perché... come sì. Mai? Ma perché un magistrato non può fare un paragone tra reato A, reato B, omicidio, strage, quant'altro, bilancio, falso in bilancio. Perché una persona normale, io mi metto nei panni del primo cittadino che capita in una qualsiasi inchiesta e viene a trovarsi di fronte al giudizio di un magistrato del genere, che armi possa avere se l'ideologia è quella? Quindi il problema non è tanto di allora, partiamo dalla coda. Grazie Mauro. Tinti, vuol replicare, insomma, questo lei è vero che dice, ma è paragonare il fatto che se uno ha commesso un reato A è un reato B, però effettivamente capisce anche lei, insomma, che giocare sulla parola, questo paragone, effettivamente io sono partito da lì, è un paragone molto forte, insomma. Lei dice no, non è che ha voluto paragonare Berlusconi a uno spacciatore di droga, però. Ma guardi, è un po' tutta la vita che io cerco di far capire questa cosa, anche quando insegnavo all'università, mi rendo conto che è difficilissimo. Le faccio questo esempio: lei adesso esce dalla sede della radio e non trova più la macchina. Ovviamente è una bruttissima azione, qualcuno gliel'ha rubata e lei ha perso i soldi che aveva investito nella macchina. Lei un bel giorno viene in pensione, prende la sua liquidazione, la TFR, e lo investe in una società, il cui titolare fa un lungo falso in bilancio per qualche anno, la fa fallire e lei ha perso tutto, non ha perso i soldi della macchina. Quando si pensa alla gravità di questo tipo di reati, io credo che non si pensi mai al fatto che reati del genere non impoveriscono, depredano le persone. Quindi secondo me il paragone tra una rapina, che può essere anche solo di un giubbotto ai giardinetti, il falso in bilancio è una frode fiscale, è molto ben trovato. Regge. Va bene, Belpietro, oppure non so, Menichini vuol dire perché, abbiamo però 30 secondi, perché secondo lei Berlusconi ora chiede all'opposizione facciamo le riforme, anche se Berlusconi in realtà ha sempre detto se volete bene, se no le facciamo a colpi di mano, i numeri li abbiamo, insomma, andiamo avanti da soli. Menichini. Prima dell'attentato di Piazza Duomo, Berlusconi e il centrodestra erano in una gravissima difficoltà politica. Sì. E questa difficoltà politica ha dei dati oggettivi che continuano a esserci, e questo è anche il motivo per cui Berlusconi ha bisogno di una stagione diversa da quella che ha lasciato alle spalle, che non era felice. Secondo punto, la giustizia, prima su questo paragone fra crimini, fra reati di un certo tipo e di un altro, io mi piacerebbe tanto una giustizia e dei magistrati che garantissero che se uno gli viene rubata la macchina trovano i colpevoli, che invece è un reato fra quelli che neanche più quasi la gente denuncia, se non per avere i soldi dell'assicurazione, perché l'idea di poter trovare i colpevoli di questi reati in Italia è un'utopia molto più remota che non quella di condannare Berlusconi. E il terzo punto, se continuiamo a chiamarlo inciucio, la gente continuerà. Impressione pessima, sì, certo. Che è una discussione sulle riforme di una politica inefficiente, però se lo si vuole fare, come in tutte quante le trattative sui costi, bisogna che tutti quanti paghino un prezzo per venirsi incontro. Il prezzo che dovrebbe pagare il PD è chiarissimo. Io non ho capito qual è il prezzo politico che Berlusconi e il centrodestra sono disposti a pagare. Va bene, ci dobbiamo fermare qui, ringraziando tutti Maurizio Belpietro, direttore di Libero, Stefano Menichini, direttore d'Europa, Bruno Tinti, ex magistrato che scrive anche spesso sul Fatto, scrive anche molti libri, li trovate. Grazie a tutti, siamo in onda anche domani il 24, Laura Marchesi in redazione, anche lei qui domani a soffrire alla vigilia, Peter Bescapè in regia, anche lui qui domani a soffrire alla vigilia, e ora Oscar Giannino, il piano Fiat, a domani.